ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansì. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capita. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah, che bella pansì che tieni, che bella pansì che hai. Me la dai la tua pansia, io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panse mia e panse tua, in ricordo del nostro amore, e panse tua e panse mia, in ricordo del nostro amore. Questo sciore avvellutato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà ammosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marroni. Ah, che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai. Me la dai la tua pansè, io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, pansè mia, panse tua, in ricordo del nostro amore, panse mia e panse tua, in ricordo del nostro amore. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, e poi sulla mia spalla con il pietro e la panse, io divento un mammalucco, poi ti baso sulla bocca e mi sembra un trick e tracco questo vaso che do a te. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai la tua pansì, io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, pansè mia e pansè tua, in ricordo del nostro amore, e pansè mia e pansè tua, in ricordo del nostro amore. La panse mia e panse tua, in ricordo del nostro amore. La panse mia e panse tua, in ricordo del nostro amore. La panse mia e panse tua, in ricordo del nostro amore.